Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Ungheria con Nicoletta Sipos. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Com'è avere un paese incastonato nella memoria storica e nel patrimonio cromosomico? È sicuramente quanto di più vivo e di profondo ci possa essere. Qualcosa che pesca nelle viscere, una specie di impronta che la lontananza non può cancellare. Ed è quello che sperimenteremo oggi con Nicoletta Sipos, che ancora bambina è venuta con la famiglia in Italia, lasciando la sua amata Ungheria. Nome, Repubblica d'Ungheria. Capitale, Budapest. Confini, confina a nord con la Slovacchia, a est con l'Ucraina e la Romania, a sud con la Serbia e la Croazia, a ovest con l'Austria e la Slovenia. Si tratta di uno stato senza sbocco sul mare. Abitanti, poco più di 10 milioni. Clima, l'Ungheria ha un clima continentale. Gli inverni sono mediamente rigidi con freddo asciutto e qualche precipitazione nevosa. Il mese più freddo è gennaio, l'estate è piuttosto calda. Le precipitazioni annue non sono molto abbondanti. Forma di governo, Repubblica parlamentare. Lingua, ungherese. Moneta, fiorino ungherese. Un euro uguale 252,75 fiorini ungheresi. Religione. Circa il 68% della popolazione ungherese è cattolica di rito latino, il 21% protestante, il 6% sono evangelici luterani ed esistono piccole comunità di greci ortodossi. L'Ungheria ha la più grande comunità ebraica del centro Europa, che conta circa 120.000 persone. Prefisso internazionale, più 36. Tuffiamoci quindi con Nicoletta in questo mare di ricordi così intrecciati col suo DNA da farci avvertire i brividi. Ho sempre avuto nel cuore l'Ungheria, che ho lasciato quando avevo 9 anni. Sono molto vecchia purtroppo e quindi noi l'abbiamo lasciato per motivi politici, perché mio padre, che era medico, si è rifiutato di prendere la tessera del Partito Comunista. Questo è l'inizio di tutto. Ricordo ancora il treno che ci portava fuori dalla nostra città, dalla mia culla, veramente posso dire. Mio papà era il medico condotto di una città agricola di provincia che si chiama Békéscsaba, che è nella grande pianura ungherese. Ricordo il senso di straniamento e di paura, perché venivo in Italia, un paese che non conoscevo, un paese dove avrei mangiato la prima arancia della mia vita, la prima banana della mia vita, cose che assolutamente in Ungheria a quel tempo erano sconosciute. L'Italia nei ricordi di bambina della Sipos è il paese dove avrebbe mangiato la prima arancia. Che meraviglia! Sembra quasi di sentirlo, il profumo di quell'agrume dolce come la nuova vita a cui sta andando incontro Nicoletta, e allo stesso tempo aspro come l'addio alla propria terra d'origine. Del resto, l'olfatto e il gusto sono i sensi più legati alla memoria, e la cucina, fra le tante cose di cui mi parlerà, avrà un grande ruolo in questo viaggio. Il mio paese è un paese strano, nel cuore dell'Europa, un paese che non ha sbocco sul mare. Però quando ero piccola mi dicevano che Trieste era il nostro porto, perché noi facevamo parte dell'impero austro-ungarico. Io sono cresciuta in questa grande pianura con distese di grano e fiori di papavero e fiordaliso. Se chiudo gli occhi ricordo questo, vedo i pozzi di acqua che ci sono nella grande pusta, la grande pianura ungherese, con i cavalli e un numero sterminato di galline, perché la cucina ungherese comprende una varietà di polli cucinati in mille modi, soprattutto con la paprika, cioè col peperoncino. E questa è veramente, insomma, un po' la mia infanzia. Egy ismerős pillantás. Úgy vártam rég, hogy küldjön újra még hozzám az ég. L'Ungheria nel cuore. E si potrebbe dire nello stomaco della mia compagna di viaggio, sta piano piano prendendo spazio anche nella mia immaginazione. Il profumo di frutta che mi è venuto alla mente mentre mi parlava del suo primo ingresso in Italia, adesso ritorna anche per l'Ungheria. E poi la frutta, perché la frutta, il profumo della frutta, ecco. Per me l'Ungheria è sempre stato il profumo della frutta. Quando sono tornata da grande, dopo il crollo dell'impero sovietico, la più grande delusione che ho avuto è stata, riguardava la frutta, perché non aveva più quel profumo bello, quel profumo incredibile. Però ho ritrovato, varcando la frontiera, veramente i paesaggi della mia infanzia, cioè i canali di scolo lungo la strada sterrata, o adesso ormai sono tutte con l'asfalto. E non vi nascondo che ho fatto come Papa Wojtyla, sono scesa dalla macchina, mi sono inginocchiata e ho baciato la terra, perché veramente mi era mancata tantissimo. Ecco cosa significa lasciare il proprio paese da bambini. Ritornarci ha poi un non so che di mistico, di religioso, e il riferimento al Papa non è di certo un caso. Quindi questi sono un po' i miei ricordi. E vorrei aggiungere che mia madre mi ha cresciuta ricordandomi che nel nostro paese, nella nostra cittadina, adesso non è paese, Ungheria, non facciamo confusione, la cittadina è Békéscsaba, c'erano i mulini che macinavano il grano per fare la farina di cui poi avrebbero fatto le ostie per il Vaticano. Ora voi sapete, è una cosa incredibile, no? Ecco, quindi tra cavalli, grano e gran turco, questa è la mia Ungheria. Questa è l'Ungheria di Nicoletta Sipos, vicino ai mulini dove si macinava il grano per fare le ostie del Vaticano, tanto per aggiungere una nota in più alla sacralità dei suoi ricordi, tra il profumo di frutta e le distese di fiori di papavero e di fiordaliso, fra cavalli e galline ed emozioni che saranno per sempre con lei. Nuova questa sensazione. Visitare un paese che è lontano geograficamente sia per me che per la mia compagna di viaggio, ma che nel suo caso è così dentro che la distanza è improvvisamente vicinanza. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Ungheria con Nicoletta Sipos. When I walk beside her, I am a better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Ogni cellula di Nicoletta Sipos ha il sapore dell'Ungheria e oggi sono qui con lei alla riscoperta di questa terra dove la memoria storica, a volte addolcita dal sentimento, si mescola col suo DNA che non conosce edulcorazioni. Mio marito dice, giustificando le mie follie, io sono pazza per l'acqua. L'Ungheria, che è stata sotto dominio dei turchi per 150 anni, però voglio dire nel 1699 poi l'Austria se l'è riconquistata, quindi è una roba molto vecchia, però a quanto pare nel mio DNA c'è questa passione per il bagno turco, per le piscine. E quando vado a Budapest io me le faccio tutte, naturalmente, dall'isola Margherita, così chiamata da una figlia del re Bela, che povera disgraziata a 9 anni è stata chiusa in convento lì, in questa bellissima isola che adesso è diventata un parco dei divertimenti con delle piscine enormi, acque termali. Ungheria era un regno di acque termali, è rimasta sempre un regno di acque termali, e Budapest un tempo si chiamava sotto i romani Aquincum, quindi è una cosa abbastanza importante l'acqua per gli ungheresi. Beh, l'acqua è il liquido primordiale dove ci si sente a casa. Provate a immaginare la forza che questo elemento può esercitare su chi all'acqua appartiene non solo come storia personale, ma anche come storia del proprio paese. Ecco, io ricordo che in queste grandi piscine dell'isola Margherita arrivavo la mattina presto, ma parlo già da grande, e mi sedevo nelle piscine e giocavo a scacchi con i signori nativi, no? Ai quali raccontavo la mia vita, cioè le mie prime esperienze nella grande pianura, eccetera, eccetera. Questi mi ascoltavano, il mio accento ungherese tradisce che sono vivo da tanto tempo all'estero, però comunque mi arrangio, come dice un mio zio, te non ti venderebbe nessuno in Ungheria, in effetti, insomma, so sempre dire dove devo andare, cosa voglio fare. E allora queste partite di scacchi, non mi risulta che ci siano altri paesi al mondo dove tu vai, ti siedi, cerchi un signore che gioca a scacchi, una signora, non è che sono assolutamente sessista in queste cose, e ti metti e cominci a giocare, a chiacchierare, poi ti portano un caffè, ma sempre nell'acqua. Lasciamo per un attimo questa immagine fantastica di una partita a scacchi, un caffè e due chiacchiere immersi nell'acqua per spostarci nei musei della capitale. Poi, se volete fare un viaggio a Budapest, che vi posso solo raccomandare, con i suoi ponti, le due parti della città, naturalmente la parte più moderna, parliamo del 1890, perché Budapest è stata periodicamente distrutta da varie invasioni, incidenti, terremoti, che ne so io, incendi, così. Invece la parte più alta, che è Buda, domina la città, e lì è più antica, insomma, e lì si può respirare un po' più della storia, ecco. Se voi siete stufi di girare per i musei, che contengono anche tante opere d'arte che vale la pena di vedere, e che comunque vale la pena di andare lì a sfrucugliare la gente, perché mia mamma mi diceva sempre che gli italiani e gli ungheresi hanno caratteri assolutamente simili. Ungheresi e italiani sono simili, nelle parole della mamma di Nicoletta Sipos. E perché no? Ogni volta che sento dire questa frase, in senso positivo naturalmente, provo un po' di orgoglio per questo nostro popolo che ha caratteristiche che altri popoli vogliono condividere. Eravamo a Budapest per musei. Però una volta che siete stufi di questi musei, di queste scorce, di queste cose, potete anche lasciare Budapest e a pochissima distanza trovate un paesino che si chiama St. Andre, che è il paese degli artisti. E lì potete trovare pittori, gallerie d'arte, artigianato anche abbastanza raffinato. Di solito l'artigianato ungherese è un po' tutto che si somiglia, ci sono queste tovaglie con i tulipani, ci sono, i quadretti, le cose, insomma, i cuscini. Ecco, una quantità di cuscini mi hanno portato i miei parenti ungheresi in Italia che non sappiamo più dove metterli, però comunque sono simpatici, i cuscini servono sempre, no? Eccoli i luoghi che si devono vedere oltre alla classica Budapest se si parte per l'Ungheria. L'occhio di Nicoletta, con la sua vena romantica dovuta alla lontananza dalla sua terra d'origine, ci aiuta a trovare mete insolite. Ecco, St. Andre è un posto che vale sicuramente la pena di andare a vedere. E poi un altro posto stupendo, in un'ansa del Danubio, che sarà una quarantina di chilometri da Budapest, si chiama Visegrad, ed è una fortezza dove Mattia Corvino ha difeso l'Ungheria dagli attacchi dei mongoli. Lì, se hai abbastanza fiato, io quando ci sono andata l'ultima volta, ormai sono passati 10 anni, avevo fiato, puoi salire un migliaio di gradini e hai una vista sull'Ungheria. L'Ungheria è piatta, no? Quindi 1000 gradini fanno già una montagna, no? E hai questa visuale e tu capisci cos'è questo paese invaso, salvato e poi abbattuto da amato, molto amato. Un paese molto amato, patria di scrittori, come prosegue Nicoletta. Un cenno alla letteratura non poteva mancare da parte di una scrittrice. È una patria straordinaria di scrittori. Non so perché, forse perché la lingua è difficile, forse perché gli ungheresi hanno sempre amato molto leggere. Scrivere sembra che venga abbastanza naturale, sembra che riesca abbastanza bene, anche se per moltissimi anni poi invece la cultura ungherese è rimasta molto isolata. Ma adesso, per esempio, se io dico il nome della signora Szabo, tutti sanno chi è. Se parlo di Tibor Fischer, che è emigrato in Inghilterra, tutti sanno chi è. E, insomma, ce n'è un sacco di scrittori ungheresi emigrati. Io con il mio nome, che è Sipos, sarebbe in ungherese, però in italiano si pronuncia Sipos, tutti mi prendono per greca e quindi devo sempre affannarmi e dire: ma io sono ungherese. Sì. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Ungheria con Nicoletta Sipos. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Dopo una partita a scacchi immersi in una piscina, una visita ai musei di Budapest e dopo aver appreso da Nicoletta Sipos, la mia accompagnatrice di oggi, che ungheresi e italiani, secondo sua madre, hanno caratteri simili, adesso è il momento di tornare alla terra, ai suoi prodotti per l'esattezza, ciò da cui peraltro eravamo partite. Allora, il tokaj lo conoscete più o meno tutti, forse qualcheduno si ricorda che con i friulani c'è stato anche un contenzioso, perché anche i friulani hanno il tokaj. Tokaj ungherese per sua natura dovrebbe essere dolce, però lo tokaj assu, perché c'è anche un tokaj che invece non è, cioè è un tokaj secco, ma come vino rosso c'è il sangue di toro di Eger, Egeri Bikaver. Quello era il vino preferito del mio papà e ogni volta che vado in Ungheria cerco di recirare un po' di queste bottiglie di questo vino rosso forte, buono, molto buono, insieme ai salami. Affinità di caratteri e affinità di prodotti, quindi. Però ci sono delle distinzioni da fare, soprattutto sul cibo ungherese visto dalla parte degli italiani. Perché in Italia si conosce soprattutto il salame ungherese, quello abbastanza grosso con delle puntine bianche, non so, che noi chiamiamo pig salami. Però invece gli ungheresi veri non mangiano quel salame lì soltanto, mangiano kolbász, che è un salame rosso di paprika per lo più, piuttosto piccolino, diciamo che il diametro sarà un centimetro e mezzo, non di più, e può essere o stagionato o fresco, e ogni città ha la sua specialità, naturalmente, soprattutto io parlo delle città della grande pianura, che insomma sono quelle la mia patria, no? Allora io invece vado a cercare un salame particolare, che naturalmente io sono di Békéscsaba, allora Csabai kolbász, che è abbastanza raro da trovare, però insomma ci sono di Seghedino, insomma, di vari paesini lì vicino, di Gyula. Allora ho scoperto adesso, riguardando un po' con la guida dell'Ungheria, che per esempio Gyula, che sembrava così lontano, Debrecen, il paese dei tacchini, sembrava, quando ero piccola mi sembravano dei paesi lontanissimi, in verità distano dai 40 ai 60 chilometri dalla mia cittadina, cioè diciamo un Milano-Bergamo abbondante, cioè proprio una sciocchezza. I ricordi di una bambina hanno parametri diversi da quelli di un'adulta, tutto ha dimensioni diverse quando si è piccoli e una volta cresciuti vanno riviste, ma la vivacità delle immagini che si sono stampate nel cuore di Nicoletta Sipos quando a soli 9 anni è stata costretta a lasciare la sua Ungheria non va toccata, perché ha la freschezza della verità. Questo è il paese nel quale mi sto facendo portare, quello così vicino alla realtà che solo una bambina può aver colto, anche ora, nel suo tornarci da grande. С теб ще правя свалката. Тили, тили с мустак, като котарак. Хей, малката, с теб ще правя свалката. Не се хаби, не върви, стисната си ти. Pur avendo parlato dell'acqua e della sua importanza per chi viene da queste parti, non abbiamo fatto nessun cenno al fiume mitico che attraversa questa terra, il Danubio. Il Danubio blu, che adesso è diventato giallo come tutti i grandi fiumi, che tra l'altro, vabbè, c'è anche la navigazione del Danubio, per cui dall'Austria vai alla Romania tranquillamente, deve essere una cosa stupenda. Io non l'ho ancora fatto, ma penso che mi piacerebbe molto farlo. È un fiume grandissimo, un fiume al quale io personalmente sono abbastanza affezionata, perché mi ha riportato il mio papà. Nel senso che mio papà è fuggito dall'Ungheria nel 51, a bordo di una di queste navi fluviali che facevano servizio tra Budapest e Vienna, e quindi ogni volta che penso al Danubio dico: guarda, meno male che mi hai riportato il mio papà. E credo che sia un'esperienza bellissima, un'esperienza che io farei. Il pezzetto che ho fatto io sarà, non so, un'oretta, ecco, da un lato all'altro di Budapest, e mi ha molto colpito per la presenza di, appunto, edifici nuovi, bellissimi, fatti con molto gusto, edifici restaurati, queste luci meravigliose, però voglio dire, è molto limitato, ecco, la mia esperienza di navigazione fluviale. Di nuovo un ricordo che affonda le radici nella storia personale di Nicoletta e che si mescola a quella del suo paese. Troppo forte per lei l'esperienza che l'ha portata in Italia, come mi raccontava all'inizio. E allora, visto che a ogni mia sollecitazione affiora questa parte della sua vita, per farla sentire a casa, torno a chiederle qualcosa che le è molto vicino e di cui mi ha già accennato più volte: il cibo. Allora, tanto bisogna correggere un errore incredibile, perché in Italia si chiama goulash quello che noi chiamiamo perkelt, che è uno spezzatino, giusto? Uno spezzatino fatto con anche con patate e peperoni, o peperoni solo senza patate, abbondante dose di paprika. Il goulash vero e proprio è un'altra cosa, è la minestra dei pastori ungheresi delle pianure, delle grandi pianure, e si preparava anticamente in pentoloni enormi dove si buttavano le immancabili verdure, cioè poche poi tra l'altro in Ungheria, perché noi abbiamo peperone, abbiamo pomodoro, abbiamo patate, beh, i soliti profumi dell'orto, carote, non è che abbiamo tante cose, zucchini, non sono tipici dell'Ungheria. Noi avevamo le melanzane, ma solo nel periodo dell'estate. Questa terra è stata ed è tuttora nutrimento per il corpo e per l'anima di Nicoletta. Come non lasciare spazio ai suoi racconti sulla cucina, allora? È in cucina che si consuma parte della sua infanzia, e perciò è dalla cucina che arriva la sua verità sull'Ungheria, che a ogni viaggio da adulta va a riscoprire. Infatti io mi ricordo che dai tempi ancora della mia nonna e della mia mamma, nelle nostre dispense c'erano barattoloni enormi, dei vasi, proprio che ogni brava massaia preparava da sé, di verdura sotto aceto, di verdura conservata, perché durante l'inverno c'era solo patate. Yeah. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Ungheria con Nicoletta Sipos. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Siamo in Ungheria con Nicoletta Sipos, lei che l'Ungheria ce l'ha nel sangue. Abbiamo visto alcuni scorci di piccoli paesi, ma anche di grandi città, alcune volte filtrati dal ricordo di Nicoletta bambina, altre ridimensionati dalle visite di Nicoletta adulta. C'è una cosa che sembra non conoscere tempo, però, e sono il cibo, i sapori, i profumi di questa terra che si sono infilati sotto alla pelle della mia compagna di viaggio. E così siamo arrivati in cucina, il cuore di una casa e perciò il cuore di quel paese che è stata la sua prima casa. Allora, comunque, tornando al Gulyas, tu metti su queste verdure e poi butti dentro praticamente la gallina se vuoi e poi eventualmente del carne di maiale, carne di manzo, quello che è, fatto a pezzetti, ma in buona sostanza è una minestra al Gulyas, è quello che preparavano i pastori, che poi si mettevano quello che loro chiamavano nokedli, cioè gnocchettini, però preparati con farina e mista ad acqua, cioè tu facevi questo tuo impasto e poi con le dita praticamente facevi pezzettini, no? questi gnocchettini. Io ho sempre davanti agli occhi le mani della mia mamma, che fino all'ultimo sapeva preparare questi gnocchetti, e poi a un certo momento si è stufata e si è preso gnocchetti sardi, dice va bene anche qui. Quindi se volete farlo potete farlo anche con i gnocchetti sardi. Come adattare le tradizioni culinarie delle proprie origini a quello che si può facilmente reperire nel nuovo paese d'adozione è un'arte che le mamme conoscono benissimo se si tratta di non deludere i figli. Ma adesso è il caso di prendere carta e penna per segnare qualche ricetta ungherese che si può replicare senza troppi sbattimenti anche in Italia. Poi se volete fare un'altra cosa carina, insomma, prendete il pollo, fatelo a pezzetti, lo mettete con cipolla, ecco, dimenticavo la cipolla, anche naturalmente ne abbiamo la cipolla, con cipolla e peperoni, potete fare un po' abbrustolire il pollo, poi aggiungete la paprika e nel sugo potete mettere la panna acida, che adesso c'è anche in molti supermercati italiani, e lo fate andare avanti così, poi lo salate a dovere e viene fuori un piatto di pollo alla paprika che è molto gustoso. Paprikash cirche pollo. Non è finita qui. Dopo il pollo alla paprika, eccoci alle palacinca, che però Nicoletta mi dice non si chiamano proprio così. E poi naturalmente ci sono le palacinta, che in Italia non so perché si chiamano palacinca, e non so come è venuto fuori, forse qualcuno non ha sentito bene. Comunque palacinta, anche quella è molto semplice da preparare, e si può farcirle anche con ricotta magari però passata, insomma dovrebbe essere una ricotta acida che in Ungheria si chiama turos, ecco. Oppure mia mamma lo faceva anche con disinvoltura, con Nutella, noi da bambini piaceva moltissimo, ma soprattutto marmellate, meglio se le fate da voi, ma vi perdono se le comprate, marmellate d'albicocca eccezionali. Le cornie ungheresi da cucinare con facilità anche a casa vostra. Un modo per far entrare le bellezze di questo paese anche tra i vostri fornelli. Io ho deciso che una delle ricette di Nicoletta Sipos la sperimenterò, magari proprio quella che mi sta per raccontare, visto che pare adatta a questo afoso clima estivo. Se no ci sono le minestre dolci, che in estate si servono fredde. Mamma le serviva come dessert agli amici che venivano. Però in verità in Ungheria, con quel caldo terribile continentale, si arriva a 40 gradi come niente. Ecco, la minestra fredda apre il pasto della sera, ecco, e può essere una minestra di anche di mela, di pera, se volete. Però quella che in famiglia nostra piaceva di più era quella alle amarene. Comunque, se volete provarla, anche lì bisogna snocciolare le amarene e metterle a bollire con pochissima acqua, perché un po' di acqua la perdono loro. Dovete aggiungere un pochino di farina. Questa è una cosa che mi faceva impazzire quando ero piccola, perché mia mamma diceva: lo vedi a occhio, insomma, non fatelo diventare troppo spessa. E aggiungete, non è molto dietetica, aggiungete della panna, uno spicchio di, una buccia di limone e abbondanti bacelli di cannella. Ecco, mi raccomando, quello è molto molto importante. E lo fate bollire, non fatelo attaccare, intanto controllate, e quando è pronta è veramente una bontà. L'Ungheria vista, annusata e soprattutto gustata nelle parole della Sipos non può che farmi fare una domanda per chiudere questo viaggio attraverso i suoi occhi e il suo cuore di bambina che ha lasciato troppo presto il suo paese. Le chiedo quindi se ha mai scritto qualcosa ambientato proprio qui. Guarda, ho ambientato un racconto. Una rivista mi ha chiesto di scrivere un racconto di Natale. E in quel racconto di Natale, che potrebbe diventare un giorno addirittura un libro, perché è un racconto abbastanza lungo, io ho parlato dell'ultimo Natale che abbiamo trascorso in Ungheria con la mia famiglia, con i profumi di biscotti, alla vaniglia, alla cannella, le creme che faceva la mia mamma. E la nostra emozione, perché in casa nostra c'era una stanza che era troppo costosa. Io vi sto parlando degli anni 49-50, quindi subito dopo la guerra era troppo costoso, non c'era abbastanza materiale per riscaldare tutta la casa, quindi una camera rimaneva chiusa, però era una specie di dispensa, e lì la mamma metteva i vassoi dei biscotti. Dirlo così è un po' banale, però noi bambini ci intrufolavamo in questa stanza e andavamo a rubare i biscotti. E mia madre era già vecchia, quasi nonna, e mia mamma ha detto: ma io tutti questi anni ti ho fatto credere che voi potevate rubare i biscotti. Ma io e la tata preparavamo triple dose di biscotti, perché sapevamo che voi sareste andate a rubarli. Ecco, quello è l'unico racconto, però ce n'ho, in cui parlo dell'Ungheria, ce n'ho uno che vorrei cominciare a scrivere tra poco. E devo dire la verità, vi devo ringraziare, voi compagni di viaggio, perché mi avete fatto ritrovare tante sensazioni, cioè, pensando alle cose che avrei potuto raccontare, spero che vi abbiano interessato, vi siano piaciuti. Mi è venuta la voglia di tornare in Ungheria e di rimettere a fuoco alcune cose, perché io ho una grande storia ungherese da scrivere. Chissà che grazie a voi ci riesca. Ne saremmo lusingati. Grazie comunque a te, Nicoletta, per questo viaggio fatto con anima e corpo, soprattutto con stomaco, nella tua amata Ungheria. Ora Nicoletta Sipos è in libreria con Perché io no, edito da Sperling & Kupfer. Fine, Mustafa, in a tu, da la tu, moshi.